Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, puntata pasquale, puntata un po' diversa dal solito. Risentiremo anche alcune delle storie che sono andate in onda nei giorni scorsi, ma sentiremo anche delle cose nuove. Avremo Carlo Gabardini. Vi ricordo anche i nostri contatti, se volete interagire con noi, l'account Twitter del programma è @ si può fare 24, mio @ Ale Maurizi. Siamo anche su Facebook, Si può fare _ Radio 24. Invece è sospeso il contest, inviati cercasi, perché insomma aspettiamo di ritornare all'interattività anche con voi cari ascoltatori dalla prossima weekend, dal prossimo sabato e domenica riprenderemo a sentire i racconti dei nostri inviati in base alle parole chiave che cominceremo a ridare appunto da sabato prossimo. Tra le cose che risentiremo nella puntata di oggi, l'intervista al soprintendente di Pompei, Massimo Osanna, dopo che tra l'altro in questi giorni a fare visita agli scavi archeologici di Pompei è stata anche Angela Merkel, che le cronache ci hanno tenuto a far sapere che è andata personalmente a pagare il biglietto. Insomma, un altro endorsement importante per Pompei, un altro grande personaggio mondiale che va a scoprire le meraviglie di Pompei. Poi insomma risentiremo anche altre cose, per esempio la notizia degli incentivi che la Francia vuol dare a chi va a lavorare in bicicletta, e risentiremo l'intervista al nostro inviato parigino e poi tante altre cose. Insomma, restate con noi, adesso facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm a businessman. I'm a businessman. In studio con Enrico Loccioni, presidente del gruppo Loccioni, un'azienda che si occupa, che studia soluzioni per altre aziende. Come prima definizione può andare, Loccioni. Buongiorno, intanto. Sì, buongiorno a voi. Un'azienda però che di cui ci siamo già occupati, un'azienda che può annoverare diversi record positivi, numero di dipendenti crescenti, età bassa, media, dei dipendenti in un paese dove c'è disoccupazione giovanile, elevato livello di studio invece degli occupati, anche qua in un paese dove si fa fatica a vedere la luce per i neolaureati, un'azienda di cui noi ci siamo già occupati come Radio 24 in passata, celebrata adesso anche per esempio in un libro di Corrado Formigli che ha scritto 8 storie di imprese in Italia, e adesso celebrata ancora di più in un libro edito dal Sole 24 Ore, 2 chilometri di futuro, l'impresa di seminare bellezza. Io Loccioni, prima di tutto le voglio chiedere, visto insomma, guardandosi intorno al panorama dell'Italia dal punto di vista di chi fa impresa non è dei più brillanti in questi anni, lei come si sente? Una specie di eroe solitario che sta combattendo e vincendo una guerra laddove altri generali sono sconfitti, oppure che cosa? Io semplicemente mi sto divertendo in questa realtà, non sto facendo né guerre e né lotte, ma da tanti anni abbiamo imparato che comunque se tu hai un cliente che comunque continua a darti fiducia da un lato, e dall'altro hai un collaboratore che si lega, si affeziona, prende parte allo sviluppo dell'impresa, è qualcosa che comunque io stesso mi chiedo: tutto questo che stiamo vivendo come fatto positivo sarà casuale o no? Io mi sto convincendo sempre più che non è casuale, cioè nel senso che non è solo l'imprenditore che fa questo, ma è proprio tanti amici che sono tutte le persone che hanno contribuito alla crescita di questa cosa. Ecco, ma adesso poi snoccioleremo i vari record positivi e cercheremo di capire perché e per come, ma come si arriva a costruire tutto questo? Gliel'avranno chiesto mille volte, ripensando anche a questi anni in cui la sua impresa è cresciuta, c'è un segreto, qualcosa che lei si porta? Io credo che non devo portare ricette, se non ormai 45-46 anni di esperienza, sono tanti, sono lunghi. Le abbiamo fatti tanti insieme e in silenzio per tantissimi anni. E questo, ecco, come riprova che comunque se vogliamo ottenere tutto subito contrasta con la qualità di quello che fai. Un'azienda, dicevamo, dai numeri importanti, bisogna stare attenti con voi perché ogni volta le statistiche vanno aggiornate. L'ultima volta che ci eravamo sentiti mi aveva parlato, credo, di poco più di 350 dipendenti. Adesso quanti siete? Siamo 380, verso alcune conferme arriveremo a 400, ma abbiamo un programma di 60 giovani da inserire durante... man mano che li troviamo. Adesso poi facciamo una scheda anche dettagliata, perché questo sì. Sicuramente chi ci ascolta è interessato. 60 posti sì. In un'azienda come la vostra. L'età media, l'altra volta che ci eravamo sentiti, mi aveva detto 32 anni. Sì. Molto... 50% laureati, e su questo dell'inserimento dei laureati andiamo indietro negli anni. I primi laureati, come scelta anche imprenditoriale, è stata quella di usare la linea guida, di farsi aiutare da persone più preparate. Cioè ogni nostro responsabile ha come impegno, come valutazione, la possibilità di mettersi intorno persone più brave, e molto spesso ci diciamo che una persona come responsabile vale quanto la somma dei suoi collaboratori. Ecco, questa scelta dei laureati tra l'85 e il 96 abbiamo misurato, c'è ancora un articolo, uno studio fatto sull'impresa, dall'85 al 96 avevamo raddoppiato il valore aggiunto prodotto dai laureati, e da allora queste figure le chiamiamo l'azionista di lavoro, cioè la persona che ci mette la conoscenza, un ambiente, la nostra è un po' anche una scuola impresa, d'impresa. Io poi amo chiamarla impresa, non azienda, no, come proprio lo spirito. Perché che ci impresa... L'impresa dà l'idea dell'intraprendere, dà l'idea dello sviluppo continuo. Non c'è un posto di lavoro da noi, ma c'è sempre una combinazione tra un bisogno, un lavoro da fare e una persona, perciò combiniamo molto spesso questi due aspetti per far sì che si coniuga la passione, l'interesse di una persona ad approfondire un argomento e dall'altra parte anche la possibilità di svilupparlo. Ecco, anche i luoghi sono importanti. Dicevamo, la vostra è un'impresa dei record, uno di questi è avere ricevuto anche dei riconoscimenti per il vostro impegno come impresa con una forte responsabilità sociale. Parliamo di scuola, ma anche di territorio. In particolare, alcuni anni fa avete avviato un progetto per il recupero di una zona. Voi siete nell'entroterra tra Jesi e Fabriano, una zona quindi di campagna. C'era il letto di un fiume che aveva bisogno di essere recuperato e sì. C'era una cosa che andava avanti da anni, una specie di tiritera, perché non si riusciva a intervenire. Voi a un certo punto avete preso questa cosa in mano e siete intervenuti. La differenza è questa, nel senso che dovevamo ampliare le nostre attività e lungo queste aree demaniali, lungo le aree che normalmente vengono viste come pericolo, l'unica cosa che comunque tutta il mondo pubblico che ce l'ha in gestione, la prima cosa che fa è quella di mettere dei vincoli. Non si può fare questo no. Esatto. Invece lei vuol fare. In realtà, quindi... allora, la forzatura è quello, ma si può fare. Cioè noi vogliamo ampliare e creare ancora un nuovo lavoro. Possiamo farlo dove vogliamo essere qui, ma vada da un'altra parte. No, io lo voglio far qua. Allora, perché non si può fare? Troviamo un modo per vedere se si può fare. Ma i soldi per fare i lavori non ce li abbiamo. Se ce li mettiamo noi... Allora lì la cosa si è sciolta. Senta, l'altra volta ci aveva detto, spero che nel frattempo non sia cambiato, che io non ho mai dovuto dire a nessun mio collaboratore che non avevo più bisogno di lui, cioè in sostanza non aveva mai licenziato nessuno, è passato qualche mese, spero che nel frattempo... No, allora, perché questo non accada, c'è bisogno che l'impresa abbia più lavoro di quello previsto. Tutte le persone deve crescere. Tutte le persone, negli incontri che facciamo, in tutte le occasioni, da noi le informazioni sono uguali per tutti e trasparenti. Quando noi abbiamo un livello di guardia che va sotto, per fortuna non siamo in questa condizione, anzi siamo all'opposto, abbiamo meno lavoro di quello previsto, c'è un'allerta, ma l'allerta è per tutte le persone. Allora le persone prendono parte, non si tirano indietro, ma prendono parte e si danno da fare. E allora questo lo dico perché io non ho avuto mai questa disgrazia di dover dire a qualcuno finora di stare a casa perché non c'è lavoro, non per altro, perché non c'è lavoro. E preferirei non trovarmici se dovesse succedere. Certo. Ma a questo punto, generalizzando, la domanda è questa sembra, può essere forse una nuova frontiera anche per l'impresa, un modello, si parla a volte del modello tedesco, di una collaborazione più spinta tra imprese, sindacati, tra imprenditori e lavoratori, proprio perché soprattutto imprese ad alta valore aggiunto tecnologico o proprio a livello di risorse umane, cioè lei diceva mettersi sul mercato insieme per cercare lavoro. Sì. Questa è una frontiera della collaborazione vera, e lei lo dimostra, credo, tutti i giorni nel lavoro che fa. Ma ci crede come modello è un caso fortunato? Allora, io almeno negli ultimi anni ho sentito tante cose che molto spesso diventano le mode, no? La New Economy, io ne conosco solo una, che è quella che o l'impresa che funziona o porti libri in tribunale. E se, quando porti libri in tribunale, è meglio pensarci prima. Quindi lei dice anche questo rientra nei concetti di un'impresa che funziona. Per lei l'impresa funziona così, e quindi questa è impresa. Sì. Se funziona il lavoro e guadagna, può comunque dialogare sul territorio, può fare tantissime cose e comunque garantire l'occupabilità e garantire comunque lo stipendio giustissimo per le persone che ci lavorano. So che lei non si sente, insomma, anche ascoltandola, non ama lamentarsi o parlare delle cose che non funzionano, preferisce trovare soluzioni e andare avanti, però ci sono molti suoi colleghi imprenditori che dicono che in Italia si fa fatica a tenere aperte le imprese, a mantenerle, per non dire a farle crescere come fa lei. Sono loro che si sbagliano o c'è qualcosa, una malattia di cui l'Italia è malata da questo punto di vista e ci vuole una cura? Allora, la possibilità di essere in giro per il mondo a fare impresa è una libertà di tutti, no? Però, e anche noi abbiamo comunque tre embrioni di impresa, Washington, Calv, Shanghai, però è fatta con persone nostre che si integrano con quella cultura di quel territorio. Ma l'obiettivo uno è rimanere in questo territorio. Io non farei questo lavoro in nessun'altra parte, per nessuna regione al mondo. Quindi ha ragione Renzi quando dice che l'Italia potrebbe essere il paese più bello del mondo dove fare impresa. No, potrebbe, è. Però poi sappiamo che invece spesso non è così. Perché secondo lei spesso per altri non è così? Ma secondo me ci perdiamo dei valori o abbiamo la memoria corta di valorizzare, per esempio, in un territorio tutto il patrimonio storico e culturale che c'è nel territorio. Questo mercato internazionale, che nel caso nostro porta clienti internazionali, i clienti ritornano da noi anche se riportano persone nel territorio. Anche quello è ricchezza, cioè anche quello è produzione di ricchezza. È un modo diverso da affrontarlo, che non è l'agenzia dei viaggi o comunque il turismo e cose del genere, no, ma è un turismo così volontario, che comunque l'impresa abbinata alla cultura, abbinata a quello che c'è intorno all'impresa, dà valore all'impresa ed è gratuito. Senta, un'altra cosa, io sono curioso, muoio dalla voglia di sapere la sua opinione su questo. In Italia è vero che si pagano troppe tasse oppure no? Cioè, voglio dire, uno dei motivi che strozza spesso le nuove imprese, le piccole imprese, ma anche imprese grandi, si sente dire, l'eccesso di pressione fiscale unito a un eccesso di burocrazia che rende difficile, per esempio, far nascere nuove imprese. D'altra parte, però, noi sappiamo che, insomma, guardando freddamente i numeri, il livello di pressione fiscale in Italia è più o meno nella media europea. Abbiamo un grosso problema col debito che ci costa parecchio. Però il suo punto di vista di imprenditore su questo? Da noi c'è un detto che è meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta, no? Come fatto negativo. Quindi poterne pagare meno. Esatto, il fatto era le tasse, ma nell'ETA, cioè le tasse, non nessuno se ne può pagare meno, siamo sempre tutti quanti d'accordo, no? È un modo per dire, cerchiamo di far pagare le tasse chi è giusto che le paghi, chi ha qualche problema in più oppure ha uno sviluppo, un'attività, cerchiamo di personalizzare un po' questo discorso delle tasse. Tra l'altro sulla fiscalità, non è la mia materia, non è la mia esperienza, molte volte andiamo per pratica, però qualcuno si è divertito a prendere i nostri bilanci, per cui negli ultimi 2-3 anni, e li ha confrontati come se la nostra impresa stesse in Francia o in Germania, per confrontarla con tre paesi. E che è successo? Non ci sono grandi differenze. Grosse differenze non no, ci sono. Cioè, facendo un mix tra varie cose, poi c'è un privilegio da una parte, un privilegio dall'altra, tasse più, tasse meno. Io devo dire che personalmente è la mia sensazione, anche per quello che conosco dei numeri del fisco in Italia e in Europa, però sa, quando poi si parla con chi fa impresa e deve far quadrare i bilanci, è diverso. Quindi sentirlo dire da lei mi conforta. l'ultima cosa le vorrei chiedere, anche se so che anche su questo appunto lei non si sbilancia sulle politiche pubbliche, ma se lei dovesse essere per un giorno ministro del lavoro, no? Cosa? Chiude gli occhi, sono ministro del lavoro, adesso schiaccio un tasto e posso fare qualcosa per i miei colleghi. Ma allora io una volta ho sentito un commento di Giuliano Amato in una trasmissione che dice: quando le cose vanno bene, diceva questo, quando le cose vanno bene il mercato, il governo riesce a fare meno danni possibili, e quando le cose vanno male che non riesce a fare niente. Per cui io credo che con tutta la volontà, con tutta la spinta, e quella che oggi leggiamo e sentiamo, si sente che c'è voglia di fare, no? Però poi se perifericamente ognuno di noi non si dà da fare, non credo che dal governo centrale attraverso linee guida noi riusciamo veramente questo è il mio punto di vista. Quindi non ci sono leggi Job Act o altre leggi del lavoro che possano ridare perché una delle cose che vedo carenti, lo dico come imprenditore nell'ottica del rapporto con le scuole, con i ragazzi, con i giovani, non c'è la fame, non c'è la voglia di andare a cercare lavoro, non c'è l'indirizzo a cercare lavoro, non si può finanziare il lavoro, non si può finanziare l'impresa, è il mercato che finanzia il processo dell'impresa. Se c'è un mercato, e il mercato rispetto a anni fa è grandissimo, è vastissimo, è pieno di opportunità, solo che la domanda e l'offerta non è così definita come lo era 30, 40, 50 anni fa. Oggi la domanda va assemblata, va vista insieme. Comunque, ministro del lavoro non mi interessa questo. Non interessa. Questo dovrebbe essere un messaggio trasversale che mandiamo a chi ci sta ascoltando, anche se io penso ogni tanto sarebbe bello finalmente avere qualcuno che conosce davvero i problemi dell'impresa, messo lì dove almeno, come diceva lei, si cerca di fare meno danni possibili. Anche questo potrebbe essere una soluzione. A volte se lavoriamo più tranquilli, forse meglio. Grazie, in bocca al lupo, Enrico Loccioni. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. We were caught up. Parliamo di Pompei, cantata anche in questo recente brano dei britannici Bastiglie. Pompei, sempre in cima ai nostri pensieri, tra sogni di gloria e di rilancio, e le miserie, le difficoltà ordinarie, i ritardi nei lavori, i furti e anche i piccoli crolli che ogni tanto purtroppo ci sono a Pompei. Pompei che forse è la vera grande sfida italiana di questi anni: valorizzare il nostro petrolio, il nostro patrimonio culturale, e farlo diventare davvero davvero un motore della crescita, ma intanto mantenerlo questo patrimonio culturale anziché vederlo franare poco a poco. Ne parliamo con il neo soprintendente a Pompei, Ercolano e Stabia, il professor Massimo Osanna. Buongiorno. Buongiorno. Professor Osanna, prima di lei non dico che hanno fallito, ma insomma non hanno ottenuto grandi risultati quasi tutti i suoi predecessori. Essere soprintendente a Pompei, prima domanda, è più una rogna o una scommessa che si può vincere? Beh, visto che ho accettato l'incarico, direi che è una scommessa che si può vincere. Quello che qui si sta facendo è, insieme al generale Nistri, che è il direttore generale del grande progetto Pompei, è quello di cercare di accelerare al massimo i tempi di progettazione e poi di esecuzione di tutti i progetti che sono nel cronoprogramma appunto del grande progetto, che dovrebbe finire nel 2015, come sa. Sente il peso della responsabilità, riesce a stare tranquillo, deve prendere qualche tranquillante ogni tanto perché... Beh, assolutamente concordo sul fatto che non è certo è un compito difficile anche perché questo primo mese l'ho passato un po' a orientarmi per capire quello che c'è, quello che va, quello che non va, e che cosa bisogna cambiare, che cosa bisogna valorizzare anche all'interno della struttura della sovrintendenza. Ecco, lei ha fatto riferimento già a Nistri, il generale dei carabinieri. Possiamo chiarire subito questo aspetto, cioè i compiti. Al sovrintendente, cioè a lei, rimane in capo la manutenzione, diciamo, ordinaria, anche la valorizzazione degli scavi, la tutela, e invece al generale Nistri, direttore del grande progetto Pompei,

Il neo sovrintendente di Pompei, Ercolano e Stabia, grazie per essere stato con noi. Avete sentito quante e quali sono le sfide. Speriamo di vincerne almeno qualcuna, che attendono Pompei. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno anche a Carlo Gabardini. Buongiorno, Carlo. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua Alessio. Ben ritrovato Carlo in questa puntata così un po' diversa, un po' speciale. Stiamo risentendo alcune delle storie migliori, cose anche nuove, anche fresche. Certo, tipo le tue notizie, nuove, anche per avere la possibilità di mangiare anche noi un po' di agnello. Di colomba. Non creiamo polemiche, esatto, con gli animalisti. No, poi a me non piace tanto l'agnello, quindi. No, neanche a me non per niente. Non c'è un problema. No, è vero. Sì, per me è falso, a me piace moltissimo, però non lo voglio dire per non essere inondato dalle mail degli animalisti. L'agnello di verdura, puoi mangiare un agnello vegetariano, fatto di cavolini vegano di Bruxelles. No, che è anche europeista, direi, come agnello, quello fatto con i cavolini. Anche ambientalista, di progressista. Esatto. Tutto inista, diciamo. Caro Carlo. Eccoci qua. Parto con delle straordinarie notizie. Benissimo. Allora, siamo in vista di elezioni, anche se oggi è Pasqua, però insomma fra poco ci saranno le elezioni europee e come ben si sa per i voti vale tutto. E i club di Forza Silvio, in generale di Forza Italia, diciamo, come ben sappiamo, non si fanno mancare niente, qualunque occasione, quella buona. Quindi dopo la campagna per le adozioni di cani e gatti randagi, che era stata esattamente, che era stata pensata, diciamo, per strappare voti agli animalisti, appunto, come abbiamo fatto noi un attimo fa dicendo che non mangeremo l'agnello. Il club Forza Silvio del 15° municipio di Roma ha lanciato una curiosa iniziativa in vista delle elezioni europee: dentiere a metà prezzo per tutti i militanti. Non ci credo. Quindi, esattamente, io all'inizio pensavo che fosse tipo come il vecchio metodo, quello della scarpa, che ti davano una scarpa, poi dopo il voto la seconda scarpa, quindi ho detto boh, saranno i denti di sopra, poi dopo il voto i denti di sotto. Attento, perché adesso c'è la legge sul contro il voto di scambio, per cui anche la dentiera vale. L'abbiamo anche raccontata ieri, giustamente. Infatti, vediamo un po' come va a finire. E invece il presidente, in realtà è più precisamente, quindi non è un voto di scambio preciso, è semplicemente un'idea, diciamo, di marketing, ed è per i nuovi tesserati, cioè chi si tessera nel club di Forza Silvio riceve lo sconto del 50% per farsi una protesi dentale. Un po' triste questa cosa. Il presidente, però invece il presidente del circolo, Vincenzo Leli, dice, giustifica, diciamo, questa scelta, questo progetto, con la necessità di garantire il benessere psicofisico dei propri elettori in un periodo di crisi. Quindi dici, non è una questione, è una questione. Io la cosa che mi sono chiesto, diciamo, è che non vorrei che ci fosse un nuovo conflitto di interessi, visto che Silvio Berlusconi andrà ai servizi sociali in una casa di cura con gli anziani. Credo che spacciare sconti su dentiere in cambio di tessere potrebbe essere sicuramente un piano geniale, diciamo, perché me lo immagino che cammina per i corridoi aiutando le vecchiette dicendo guardi, se vuole la dentiera nuova comunque c'è la tessera al 50, esatto, insomma, non lo so se c'è un conflitto di interessi, però mi sembra che faccia bene a puntare sugli anziani, visto un po' perché questo paese è in stragrande maggioranza formato da anziani, e poi perché lui adesso farà campagna elettorale con quello che ha. Dov'è? Un'altra notizia invece per correttezza, visto che l'avevo data settimana scorsa, la notizia della polemica su Twitter e un po' in generale sui social del poster della Meloni. La Meloni fece un poster, il suo poster elettorale. Sembrava ritoccato. Era ritoccato. Direi evidentemente ritoccato. E lei, secondo me, con grandissima ironia aveva scritto sul suo Twitter: ogni volta che esce un manifesto con una foto decente, tutti a dire che è ritoccata. Ufficiale, il mondo mi considera una cozza. Mi faceva molto ridere questa cosa, che lei l'avesse presa con ironia, perché questo cartellone che era uscito era particolarmente angelica. Però le polemiche sono andate avanti nonostante il tweet di della Meloni, e a quel punto la Meloni ha addirittura postato una parodia del proprio manifesto, dove al posto della sua faccia c'è proprio una vera e propria cozza. E mi sembra di nuovo Beh, non che... le manca l'ironia. Esatto, direi che di nuovo ha segnato il punto. Facebook diventerà una banca. Essendo qui a Radio 24 mi sembrava una notizia da dare, poi magari l'avete già data, io questo non lo so, perché sono ignorante sia questa è una cosa semiseria, mi ha un po' inquietato, avevo letto il titolo. Esatto, un po', racconta. Zuckerberg, appunto, dopo aver inventato 10 anni fa il social più amato, più famoso e sicuramente più redditizio, ovvero Facebook, e dopo anche aver rilevato poco tempo fa WhatsApp, il famoso social, il servizio diciamo di messaggistica istantanea che gli è costato 19 miliardi di dollari se non ricordo male, ha inventato adesso, vuole diciamo provare a lanciare una nuova una cosiddetta banca, diciamo, in rete già viene chiamata Facebank ovviamente, o Facebank come si vuole. Che cosa succede? Stando a quanto dice il Financial Times, pare che Zuckerberg abbia già presentato richiesta di autorizzazione all'Irlanda per offrire un servizio di deposito virtuale agli utenti Facebook. Non si sa ancora come funzionerà esattamente. Zuckerberg vuole introdurre per ogni profilo, quindi di Facebook, la possibilità di avere un portafoglio elettronico attraverso il quale sarà possibile concludere vere e proprie transazioni. Non si sa quindi se saranno se sarà una cosiddetta moneta virtuale, quindi una moneta tipo il Bitcoin, oppure se in realtà rimarrà quella reale, perché pare che il vero motivo al quale pensa Mark Zuckerberg sono i migranti che spostano denaro alle proprie famiglie e pensando in questo modo di farglielo fare in maniera più agevole, più rapida, più veloce, e forse anche diciamo di prendersi una piccola commissione lui, infatti appunto fare una banca. Mi sembra una notizia importante, visto che ho visto che nel 2013 solo dall'Italia sono partiti, come si suol dire, verso il paese d'origine degli immigrati che lavorano qui in Italia, nel nostro paese, ben 7 miliardi di euro. Quindi diciamo che quando Zuckerberg vede delle quantità di denaro e delle possibilità di transazioni, vuole metterci le mani sopra. Esatto. Quindi dopo Facebook il social, adesso la banca, attendiamo con ansia che Facebook costruisca, diventi case. Una religione. Secondo me il passo dopo è diventare una religione. Senti, tu hai parlato di Berlusconi che vuol prendere il voto tra gli anziani, però questa cosa dei servizi sociali è una cosa importante. In Italia fa scuola, al di là del caso Berlusconi. Lo sai che dentro il penitenziario di Padova c'è una linea Giotto famosa che fa panettoni, adesso fa colombe pasquali, c'è una vera e propria pasticceria che fa lavorare. Ma non faceva pennarelli Giotto? No, è lo stesso nome, ma è un'altra cosa, fa lavorare i detenuti e non solo. Ecco, adesso questa cosa qua, pensa quanto è venuta bene, quanto è bella, quanto è importante, che dal penitenziario di Chicago la vogliono copiare. La notizia di questa settimana è che gli americani a Chicago vogliono copiare il modello del carcere di Padova che fa lavorare i detenuti. Beh, e fa questa pasticceria. Pensa, ma secondo me vogliono forse rubare la ricetta del panettone, che dici? Questo è quello che è scritto nell'articolo, potrebbe esserci anche questo dietro. Sì, vero. Però comunque il modello fa scuola. Voglio dare un altro aggiornamento che riguarda una delle storie di cui siamo occupati. Ti ricordi Giovanni Cafaro, il 42enne che aveva perso un lavoro milanese e lavorava nel marketing, che si era inventato "io faccio la coda al posto tuo"? Certo, quello dei bigliettini. Adesso, esatto, adesso ha messo su un sito che si chiama giovannicafarocodista.it e in questo sito annuncia di voler fare dei corsi di formazione per altri codisti. Dai, a parte che la parola codisti allargando, possiamo dire che è stupenda, è abbastanza quando vedremo codista dentro nel dizionario Treccani, direi che lo invitiamo. Lui avrà vinto la sua scommessa alla ospite. Grande a quel punto. Si può fare cronache da un paese migliore. Really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell that you different from most, slightly approach you. And the ill shit about it, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you, baby, ma. If you give it to me. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. La logica del baratto. Baratto. Baratto. Ma è anche la logica dell'incentivo. Se io sono un comune e voglio incentivare un comportamento corretto, virtuoso, come per esempio la raccolta differenziata, cosa posso fare? Che in cambio della tua, del tuo impegno per fare la differenziata, ti do qualcosa. Ti do qualcosa. Ci sono comuni che danno punti, comuni che danno sconti sulla TARSU. È arrivato anche il comune che ti dà proprio direttamente il sacchettino della spesa. Parliamo di Baronissi, siamo in provincia di Salerno, abbiamo convocato il sindaco Giovanni Moscatiello. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. In questa puntata da sapore un po' pasquale non vogliamo però distrarci dagli argomenti importanti che contano, quindi insomma la raccolta differenziata è importante e voi la state realizzando grazie a questi incentivi. Pasta fresca, io leggo dal titolo del giornale, e olio extravergine a chi fa la differenziata, è così? Sì, noi abbiamo iniziato, noi siamo il primo comune in Campania ad aver iniziato la raccolta differenziata nel 2001. Il primo in comune in Campania? Il primo comune, proprio. Ma certificato da qualcuno o ve lo siete, diciamo, sì, attribuito? No, certificato perché quando il presidente chiuse tutte le discariche gestite dalla Camorra, ovviamente ci fu un problema di riorganizzare i servizi in tutti i comuni, nei 551 comuni della regione. Noi, a differenza di altri che continuarono normalmente con i cassonetti, cioè decidemmo dopo 11 giorni di eliminare tutti i cassonetti e di iniziare con la raccolta differenziata porta a porta spinta. Ovviamente puoi immaginare lo shock che ci fu allora, le proteste, le prime difficoltà. Le proteste di chi? Le proteste dei commercianti, di chi non era d'accordo. Perché era troppo impegnativo. Adesso vi ringrazio, vi avranno fatto un monumento. Sì, no, poi abbiamo puntato molto, questo ci tengo a sottolinearlo, nella comunicazione con i giovani, con gli studenti nelle scuole, e nelle zone frazionali, con incontri regolari con la gente. E questo, con l'apertura poi della piattaforma ecologica che noi abbiamo, ha contribuito, pensi, oggi ad arrivare a un dato veramente importante: il 52% della popolazione del nostro comune, che conta 18.000 abitanti, reca direttamente i rifiuti presso la piattaforma. Questo è ottimo. È molto alto. Un attimo, che percentuale di raccolta differenziata siete arrivati con questo sistema? 75%. Quanto? 75%. Abbiamo vinto il primo premio nazionale per la qualità di raccolta differenziata. Perché è importante anche questo, la qualità. Come qualità. Sì, certo. Sì, come qualità. Questo è importante, me lo faccia dire, perché la qualità è importante nel senso che se si sbaglia a fare raccolta differenziata, si mettono gli oggetti sbagliati, si mette il vasetto allo yogurt non pulito, tante cose. Bisogna imparare a farlo, perché poi dopo i materiali diventano delle risorse, delle materie prime. Ma a volte è difficilissimo. Direi che è stato molto saggio il fatto di iniziare dai giovani, convincere i giovani, perché su certe cose sono i figli che devono educare i genitori, quindi mi sembra una cosa molto saggia. Sì, se mi permette volevo dire altre cose. Cioè, l'abbiamo chiamata apposta, prego. Oltre a questo risultato, che è stato molto molto importante, poi abbiamo iniziato a fare quelle incentivi, come la chiamati lei, insomma, come se fosse quasi un aspetto commerciale, non mi veniva il termine. Cioè, abbiamo pensato che in effetti l'immondizia era una risorsa per noi. Noi vendevamo bene la carta, vendevamo bene il vetro, vendevamo bene l'alluminio. Quindi l'abbiamo trattato come se fosse un fatto commerciale, come credo debba essere, perché alla fine poi è una risorsa che viene trattata bene, e abbiamo incentivato i cittadini, prima con una campagna sull'olio esausto, che è uno, come lei sa, dei peggiori inquinanti che esiste. Quindi per chi ci dava 5 litri di olio esausto, che consegnavano alla nostra piattaforma, noi davamo un litro d'olio DOP delle nostre colline. Che bello, non è poco. Questo dato in realtà è molto importante. Mi scusi, sindaco, è importante perché siccome ne abbiamo parlato anche altre volte della questione dell'olio, e chiedevamo appunto, siccome usando quest'olio si ricavano anche dei soldi, quindi giustamente è quasi dividere i profitti, perché a dirla così con gli incentivi, sennò uno dice: però sono pochi senza comuni che lo fanno. Senza incentivi io non faccio la differenziata, no, la dovrei fare lo stesso. Invece, nel momento che il comune ci guadagna anche delle risorse, è giusto in qualche modo ridividere questo reddito. Ha giusto? Capito, sindaco? Pronto, sì. Non ho sentito nessuno. No, Gabardini si sta complimentando con voi perché siete tra i pochi comuni che in effetti riconoscono questo incentivo economico a chi porta l'olesausto. In altri comuni si porta l'olesausto ma non si riceve in cambio niente. Sì, ma soprattutto mi stavo complimentando perché è una differenza, perché chiamarlo solo incentivo sembra di dire semplicemente lo faccio, altrimenti tu non fai la differenziata. Invece in questo modo in cui lo fate, e giustamente lo comunicate voi, è come dire noi comuni ci guadagniamo dei soldi da questo modo di raccogliere. Sì. E quindi è giusto che anche voi cittadini ne abbiate qualche cosa. Cioè, infatti, o non vi faccio pagare delle tasse o vi do un chilo d'olio. Infatti, la cosa poi più bella di tutto, cioè quello che chiude proprio il ragionamento, oltre a questa ultima proposta che abbiamo fatto sull'alluminio, la pasta fresca a cui faceva riferimento lei, il dato bello di tutta questa vicenda è che noi siamo l'unico comune, questo veramente certificato dall'Istat, che è l'unico comune che ha abbassato del 20% la tassa sui rifiuti, perché noi abbiamo avuto un grande risparmio da questa organizzazione e il grande risparmio alla fine si è riverberato sulle tasche. Quindi risparmio all'ambiente, risparmiano anche le tasche dei consumatori, dei cittadini, e questo risparmiano tutti. È proprio il massimo. Beh, complimenti, perché bravo. Nessuno di solito abbassa le tasse, quindi mi sembra un'ottima notizia. Va bene, il prossimo passo cosa volete fare? C'è già in mente? Abbiamo ancora altre novità. Altre novità, voglio dire, però insomma. Vabbè, godiamoci intanto i successi. Il lato che arriva. E magari facessero tutti come lei e come il comune di Baronissi. Complimenti. Grazie ancora. Grazie mille, buona Pasqua. Hai capito? Bella questa storia, perché è giusto sottolineare che insomma i rifiuti non sono più rifiuti ma sono materie prime, hanno un valore, e allora se tu aiuti il tuo comune a recuperare questo valore è giusto che ti torni in tasca qualcosa, altrimenti vale tutto. Chi butta via indifferenziato e chi invece fa quello sforzo. Sì, che in realtà è per tutti, anche questo è di nuovo una cosa in più, perché oltre a quello che ti dà il chilo d'olio in cambio di 5 kg di olio esausto che tu consegni al comune, in realtà poi è un beneficio per tutta la comunità, perché se tutti o la maggior parte sono virtuosi, se si abbassa del 20% la tassa sui rifiuti, beh, che cosa si può dire di più? Che complimenti. Bene, molto bene. Adesso facciamo una breve pausa, poi torniamo, risentiamo l'intervista che avevamo fatto al collega che sta in Francia e che ci aveva parlato degli incentivi in quel paese per chi usa la bicicletta come mezzo per andare a lavoro. Ti ricordi? Molto bene, bella storia. Molto si bene. Può fare all'estero. Che era dei pochi centesimi a chilometro, molto bello. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan. Oggi siamo molto anni 90 con le scelte musicali, a partire con Zucchero, però lo richiedeva l'ascoltatore Daniele Agostini, e adesso siamo finiti coi Queen. Vabbè, finché siamo agli anni 90, partono gli anni 60, e quando si arriva agli anni 20, agli anni 30. Insomma, quando eravamo giovani noi, che diventa un problema. È una delle nostre canzoni preferite. Quando parliamo di bicicletta, l'hai anticipato tu, è una notizia che viene dalla Francia. Lo Stato promette di rimborsarti ben 25 centesimi a chilometro se vai a lavorare con la bicicletta. È stupendo, il nostro ascoltatore di prima si faceva 10 euro solamente ad andare, giusto? 40 km in bicicletta, diventa un'integrazione allo stipendio. 10 euro andare, 10 euro tornare. Tu comunque non incasseresti una lira. No. Perché il motorino non è contemplato. Però il mio motorino è spesso rotto e lo spingo. Secondo me un chilometro di motorino spinto varrà almeno 28 centesimi, altro che 25, no? Sentiamo che cosa ne pensa Andrea Paracchini, giornalista freelance, anzi giornalista di Altermondes a Parigi. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Giornalista italiano naturalmente, è un emigrato. Bonjour. Esatto. Bonjour. Andrea, credo che si tratti di un annuncio del ministro dei trasporti, esatto. Frédéric Cuvillier. Cuvillier. È una delle 25 proposte che ha presentato Frédéric Cuvillier il 5 marzo, e fa parte di un piano di azioni per le mobilità attive, così si chiama, e questo piano è centrato attorno alla bicicletta, a misure per incitare l'uso della bicicletta da parte dei francesi. E tu dicevi, parlavi di promesse, in realtà no, è un annuncio. Nel Quindi senso è una che cosa che si farà. Di sperimentare questa misura, per adesso in maniera volontaria, a carico interamente delle imprese che decideranno di farlo, e poi in base ai risultati che la misura avrà, decidere se eventualmente estenderla. A quel punto si tratterebbe di una misura defiscalizzata e quindi non costerebbe nulla. Andrea, perché tu sei un giornalista, hai scritto anche io sono un ignorante, quindi ho bisogno di capire bene. Tra l'altro hai scritto anche un libro, ti occupi di sostenibilità, la revolution dei colibrì, adesso poi ne parliamo, quindi sei la persona più adatta. Vivi a Parigi da un po', da quanto tempo vivi a Parigi? Da più di 6 anni. Più di 6 anni, quindi sei la persona più adatta per parlare di questa cosa. Però sei entrato in questioni di defiscalizzazione, eccetera. Allora, prima di tutto diciamo una cosa, è un annuncio, quindi non è una promessa, è una cosa che si farà, insomma, si sperimenterà. Però il meccanismo che hanno pensato qual è esattamente? In pratica si tratta di, appunto, rimborsare 25 centesimi al chilometro al lavoratore che decide di recarsi in bicicletta al lavoro. Però lo faranno le aziende? Sono pochissimi, sono il 5% dei francesi, sì, tra cui il sottoscritto va a lavorare tutte le mattine. Bravo. In bicicletta. È una misura che esiste già, nel senso che qualcuno aveva già applicata di proprie iniziative, in particolare due agenzie governative, l'agenzia dell'aria e quella dell'acqua, che dipendono dal Ministero del... Cioè queste due agenzie pubbliche già rimborsano i loro dipendenti che dichiarano di abitare a 5 km di distanza, quindi 5-5-10, esatto, fanno il conto e in busta paga gli fanno trovare questi soldi. Esatto. E lo stesso meccanismo esiste già oggi per la metropolitana e anche per i mezzi di trasporto come l'auto. Ma dove li trovano i soldi in Francia? Pazzesco. Per la metropolitana, per esempio, il datore di lavoro paga metà dell'abbonamento mensile. A Parigi è 60 euro l'abbonamento mensile della metropolitana, quindi si vengono versati 32-33 euro in busta paga per compensare il costo dell'abbonamento. Ma chi è che verifica se uno va veramente in bicicletta a lavorare? Allora, di questo non si è parlato. No, perché io tengo una piccola biciclettina legata sempre lì al palo, poi vengo col motorino e poi faccio gli ultimi 2 metri. Ma ci sono persone oneste, non come noi. Che lo spiccato senso civico francese non ha indotto il ministro a porsi il problema delle truppe, giusto, per adesso, giusto, almeno. È che noi siamo italiani, siamo ancora qua, viviamo ancora qui, e per questo. Scusa, Andrea. C'è da dire che le due agenzie governative in cui è stata attestata la misura ci sono 250 dipendenti e una trentina per oggi si avvalgono di questa possibilità. Quindi poco più del 10%, però è una percentuale che può essere ragionevole anche rispetto a quante persone effettivamente utilizzano la bicicletta. Non ho capito però ancora una cosa, Andrea. Questi, nel caso delle agenzie governative, a pagare è lo Stato. Nel caso delle aziende private, sono le aziende che pagano e vengono poi rimborsate dallo Stato, o ce li mettono proprio le aziende i soldi? In pratica, durante questa fase di sperimentazione sarà a carico totale delle imprese, quindi chi vorrà, come gesto, come perché ci crede, come valori, potrà farlo, ma completamente a carico proprio. Nel caso poi la misura funzionasse, i risultati di questa sperimentazione fossero interessanti, a quel punto la misura verrà generalizzata e sarà in quel caso lo Stato a esentare da imposta, sì, quella parte di compenso, certo, relativa alla... Scusami, anche perché mi sembra che sia, cioè, che abbia un senso se lo fa lo Stato, perché in realtà lo Stato, certo, ha anche un ritorno, ed è bellissimo. Il bello di questo progetto è che è un progetto a lungo termine, perché anche sulla salute pubblica, come risparmio. Invece l'azienda privata che motivo avrebbe per incentivare i propri dipendenti a venire in bicicletta, a parte che ha tutti i dipendenti sudati? Ma diciamo che effettivamente sì, si suppone che questa misura, se venisse generalizzata, arriverebbe a costare 110 milioni di euro all'anno per lo Stato, certo, ma avrebbe ricadute positive sulla salute pubblica stimate a 35 milioni di euro. No, infatti. Quindi... è perfetto, il progetto è stupendo. Mi chiedevo come mai partiva una sperimentazione non pagata dallo Stato, ma diciamo a carico delle aziende private. La questione è molto prosaica, nel senso che, per quello insistevo inizialmente sul fatto che è una promessa, nel senso che per quest'anno non ci potranno essere investimenti in mobilità sostenibile in Francia, perché il governo ha fatto marcia indietro su un'ecotassa che doveva praticamente tassare il trasporto su gomma, i camion. Sì, che sappiamo anche ha riguardato anche l'Italia, perché c'è la società Autostrade che gestisce che una parte, esatto, anche sì. Esattamente. E noi siamo basiti, però sì. Il governo ha fatto marcia indietro e sì. Quindi non ci saranno i soldi previsti tramite questa misura, non ci sono non più ci e sono. Quindi non ci saranno più investimenti. Ah, ho capito, scusa, ho capito. Noi comunque siamo molto, come dire, affascinati da questa cosa, cioè il fatto che comunque si metta sul piatto un rimborso per i ciclisti che vanno a lavoro in bicicletta, poi che inizialmente lo debbano fare le aziende, però cioè, ci sono due aziende pubbliche che lo fanno, insomma. In Italia manco a farla, stiamo parlando della riforma del codice della strada ancora, siamo veramente affascinati. Andrea, tu tra l'altro hai scritto un libro, La Revolution dei Colibri, in cui proprio racconti questi percorsi di sostenibilità che si possono, come dire, scoprire in Francia e che possono avere qualcosa anche da insegnare a noi italiani. Certo, è lo spirito un po' del libro è un po' analogo a questo, nel senso è ispirarsi a buoni modelli di economia sociale e solidale francesi da raccontare, spiegare e mostrando anche quali sono i limiti, quali sono le problematiche che vanno affrontate se si volesse ispirare da questi modelli e applicarne in Italia. Sì. Ne parlo di 8 modelli, 8 esperienze, per alcune di queste già esistono scambi, quindi c'è già un dialogo in corso, per altre invece le cose sono un po' complicate. Ci vuoi fare qualche esempio? E quindi in pratica si tratta di capire se ci sarà effettivamente una ripresa. Gli argomenti sono molto molto ampi, si va dall'agricoltura alle energie rinnovabili, passando per il turismo. Ma come mai colibri? Come mai la rivoluzione dei colibri? A parte che sembra una parola francese, io pensavo fosse per quello che l'avessi scelta, invece immagino che no. La rivoluzione l'ho scelta perché è una parola francese, colibri no, semplicemente perché si fa riferimento a una leggenda degli indiani d'America che parla di un incendio nella foresta in cui in pratica tutti gli animali restano un po' imperterchi davanti a questo, restano scioccati davanti a questo incendio, osservano la foresta che era in fiamme e c'è un piccolo colibri che continua invece a svolazzare da una pozza d'acqua verso l'incendio portando poche gocce alla volta nel suo becco per tentare di spegnere questo incendio. Un armadillo lo ferma e gli chiede basito, ma cosa fai? Non ti rendi conto che non ce la farai mai da solo a spegnere l'incendio? E il colibrì lo guarda e gli risponde sì, lo so, ma io faccio la mia parte. Bellissima, è una storia bellissima, siccome la conoscevo volevo che la raccontasse perché mi sembra bellissimo, cioè che anche una goccia, se ognuno facesse la sua parte gli incendi smetterebbero, diciamo, quindi mi sembra una storia molto bella. Grazie Andrea Paracchini, La Rivoluzione dei Colibri, il libro edizioni Sonda, lo trovate in edicola, in libreria, buonanotte, grazie ancora. Andate a comprarlo in bicicletta, chissà che non abbiate anche voi il rimborso di 25 centesimi a chilometro. Sul prezzo del libro, sarebbe stupendo. Che la Francia propone e che fa anche, però, perché non è solo un annuncio. Grazie Andrea. Grazie mille. Prego. Si può fare cronache da un paese migliore. Così ho capito, nella vita il significato c'è il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ingrassato. Viaggio, un paese ben coltivato, viaggio nell'Italia che torna alla terra e forse a se stessa, è il nuovo libro di Giorgio Boatti, un scrittore, collega, giornalista, è un bellissimo libro, lui è in studio qua con noi oggi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Un viaggio alla scoperta di un'Italia agricola da parte di un non tecnico, di non appassionato a questa materia, alla scoperta di un'Italia com'è, ma anche come potrebbe essere se noi mettessimo davvero in cima alle nostre preoccupazioni questo tema dell'agricoltura, del paesaggio, della cura del territorio, che per noi è davvero una miniera preziosa. Giorgio, cosa hai visto, cosa hai scoperto, come è nata anche l'idea di fare questo viaggio? Beh, l'idea è nata guardandomi attorno. Io abito in campagna, in una cascina, ci sono andato a stare da pochi anni e guardavo il paesaggio, camminavo, andavo al fiume, boschi,

fuori dalla metafora e dall'ironia di Bennato, l'Italia è veramente il paese dei balocchi. Sono posti meravigliosi, il cielo azzurro come canta la canzone, tante cose belle da vedere. Non potevamo esimerci nei giorni di Pasqua dal dare anche noi in un bel posto, no, da dare un suggerimento agli giusto, ascoltatori su dove andare, un itinerario insomma, per passare qualche bel momento di turismo slow, come lo vogliamo chiamare, un turismo basato sul relax, turismo slow ha quella sensazione che sei in coda sulla sì. A1 per 9 ore, forse. Ma, molto slow è proprio, cioè, sì, imbottigliato nel traffico, ma anche un'ora di coda, se poi uno va in un bel posto ci può stare, basta essere tranquilli, sereni, sì, ma basta uscire che, a un certo basta punto uscire, basta fare andare. Una statale, storia, cultura, tradizione, buona tavola è quello che vi attende nelle Marche, se volete seguire il consiglio di un progetto che si chiama Un Paese 100 Storie, la cui edizione primaverile si terrà tra le province di Pesaro e Urbino dal 24 al 27 aprile, proprio nei giorni del ponte. Ne parliamo con Cristina Ortolani, ideatrice e curatrice appunto di Un Paese e 100 Storie. Buongiorno Cristina. Buongiorno, buongiorno, grazie per questo spazio. Buongiorno. Allora, cosa ci attende? Vabbè, cosa ci attende venendo nelle Marche? Basta studiare un po' di geografia, no? Un sacco di roba, tra l'altro, un sì, sacco. Veramente un sacco. Ma cosa ci attende se vogliamo seguire le orme di questo progetto. Percorso, progetto? Vi attende, beh, speriamo poche file sull'autostrada intanto, vi attende un incontro con gli abitanti di tutta una serie di borghi e castelli tra i più deliziosi e più carini delle Marche. Abbiamo per esempio Montefabbri, che è uno dei borghi più belli d'Italia, e l'incontro con gli abitanti, perché proprio il progetto si fonda sull'idea che gli abitanti diventano testimonial dei loro luoghi. Ah, che bello! Quindi, oltre ad essere accolti a cena in famiglia, il sottotitolo di questo progetto è Le Marche a cena in famiglia. Questa edizione si svolge in provincia di Pesaro Urbino, poi avremo delle puntate anche in altre province, per esempio Ascoli Piceno con l'estate. E niente, si va a cena in famiglia, l'assunto è molto semplice, si va a cena in famiglia dagli abitanti dei paesi. È semplice, ma è la parte più bella quella, infatti, mi sembra. Mica tanto infatti. Semplice deve essere almeno creare io, una rete così. Quando l'ho letto l'ho trovato veramente la parte più bella, questa cosa. Grazie. Di andare a cena nelle famiglie e farsi raccontare. Infatti, ma scusi, l'ho interrotta? No, assolutamente, è esattamente questo, è la parte più semplice ma anche la parte più bella, perché poi si entra nel cuore delle case, molte di queste famiglie accolgono gli ospiti proprio in cucina, quindi si entra in quella che è la parte più viva forse della casa, che si siede a tavola con le famiglie, si fa raccontare le storie delle famiglie, si raccontano anche le proprie storie, c'è uno scambio, noi diciamo sempre che è uno scambio di storie e di parole. Ovviamente a tavola si parla di sé, poi si parla dei luoghi, ci sono anche tanti anziani che raccontano anche storie del passato e anche tanti giovani che magari in quei luoghi sono trasferiti da poco e che però poi dopo hanno piacere di aprire la loro casa appunto per accogliere nuovi amici. Cristina, ma ci spieghi un po' come funziona? Cioè voi poi li lasciate lì da soli gli ospiti e quelli della casa, oppure c'è anche qualcuno di voi a mediare, non so, dovesse succedere qualcosa? No, non si media, è un invito al buio e devo dire che è la parte più bella, perché noi li accompagniamo in paese, in genere c'è tutta un'organizzazione molto precisa, insomma li accompagniamo in paese e poi li lasciamo nelle mani dei padroni di casa. Ma è giusto, tra l'altro non è che ci sia da mediare, voglio dire, sono marchigiani, non è che siano pericolosi. Tra l'altro, no, non siamo gente pericolosa. Esatto. No, ma tra l'altro leggevo sempre nel progetto, che trovo molto bello, che il fatto di dire, siccome il percorso di scoperta del territorio è guidato dagli stessi cittadini, che in qualche modo sono loro stessi i testimonial di questi luoghi. E mi sembra molto bello, perché per una volta questa parola, che è anche un po' una parolaccia, testimonial se vogliamo, invece riacquista tutto il suo significato. Più testimone di uno che veramente abita lì non c'è nessuno. Esattamente, noi parliamo infatti sempre di testimoni, e testimoni era un po' una forzatura, ma insomma è una cosa no, che poi passa più velocemente. Esatto. Perché, sì. E sì, esattamente questo consente di scoprire, oltre ovviamente alle storie che si imparano, si vengono a conoscere a tavola, e consente anche di scoprire magari, che ne so, chiese che in genere sono chiuse perché la signora del paese possiede la chiave, quindi ci fa vedere anche dei tesori, sono anche cose molto belle che spesso rimangono chiuse in Italia, sono anche parte di abitazioni private, abbiamo per esempio una chiesa bellissima a Sant'Angelo. Ma perché è la perpetua le chiavi di quella chiesa oppure si è comprata la chiesa la signora? No, perché sono meccanismi, diciamo che in sintesi si può dire che è la perpetua, ecco, sono meccanismi per cui la chiesina magari in genere è chiusa al pubblico perché è in un posto sperduto dove magari non c'è il parroco. E allora la signora che fa le veci della perpetua poi ci apre la chiesa, ci racconta tutto, poi si finisce anche a fare la merenda a casa sua. Certo. Sono meccanismi misteriosi che, e tra l'altro, se si può dire, sono un po' sempre sul limite, perché da un lato a me queste cose piacciono moltissimo, che tu riesci a vedere quella chiesa perché c'è la signora che ha le chiavi, ti fa entrare, te lo fa vedere, ha un sapore poi, speciale. Esatto, poi è anche vero che d'altro canto spesso ci si lamenta quando dice ma com'è possibile che le chiese siano chiuse, in alcuni posti piccoli non c'è gestione, a volte però conquistarsela, quindi se si conosce, esatto, a volte conquistarsela ha un sapore che uno al bar chiede, ma nessuno ha le chiavi della chiesa, è sempre molto bello. proprio così, noi infatti abbiamo cercato di mettere a sistema questa esperienza, perché è tutto dato dalle cene in famiglia molti anni fa, nel 2005. Poi tanto, sempre più spesso arrivavano persone anche da fuori provincia e quindi ci chiedevano anche di visitare i luoghi, i posti, e da lì è venuta fuori questa rete. E di conseguenza c'era questo meccanismo per cui esattamente uno va al bar, al circolo, lo trova aperto e dice scusi ma come faccio a vedere quel palazzo? Beh, vado a suonare il campanello, c'è il conte che mi apre. Certo. L'Italia è minore, ma è anche una parte interessante. Cristina, mentre diciamo da un lato della medaglia, diciamo quello del turista che viene, mi metto facilmente nei panni, no? Perché uno può essere interessato a scoprire questo mondo e questo modo anche di scoprire una regione e le Marche, ma dal lato invece di chi offre l'ospitalità, come li selezionate, come li trovate, che persone sono? Perché è una cosa particolare, insomma, mettersi in gioco, aprire la propria casa a degli sconosciuti, conosciuti, eccetera, eccetera. Come si candidano le persone? Dunque, le persone si candidano, intanto negli anni si è creata una rete, per cui si è sparsa la voce, sono tutti posti piuttosto piccoli, dove questa iniziativa è nata, è un paese, una frazione di Tavuglia, più nota per Valentino Rossi, ma insomma è una frazione di Tavuglia che si chiama Belvedere Fogliense, dove questa cosa è nata nel 2005. Da lì poi si è sparsa la voce per le famiglie che abitano nella frazione sotto, a 5 km di distanza. Poi si sono avvicinati tanti enti, sempre comuni piccoli, fino ad arrivare ad alcuni quartieri particolari del comune di Pesaro, che è un comune più grande, abbiamo circa 100.000 abitanti, ma ci sono ancora dei quartieri, in particolare quelli legati ai borghi delle colline, dove si è rimasti quasi come un paese. Quindi c'è un passaparola tra le persone, poi questa cosa ha avuto a livello locale un certo riscontro, ci hanno visto in giro sui media, su Facebook, e ci telefonano dicendo ma io vorrei ospitare. Ed è questo il bello, che loro vogliono mettersi in gioco, cioè sia chi è ospite sia chi invece è ospita, che apre la casa, ha questo grande impulso tutti a mettere a conoscere, tutti e due hanno, si incontra l'esigenza di parlare, insomma, di conoscere persone nuove, quindi proprio mettersi in gioco. Certo, ma mi scusi, volevo chiedere, ma è un caso o è una scelta il fatto che sia il ponte e il weekend con dentro il 25 aprile, giorno della liberazione? Oddio, siamo in un territorio molto segnato dalla linea gotica, quindi infatti. Mi sembra anche un bel giorno per parlare magari con dei testimoni anche del 25 aprile. Sì, sicuramente molti degli anziani che sono a queste tavole hanno vissuto di persona quei momenti molto, molto drammatici. È una memoria che segna molto questi luoghi, tra l'altro siamo proprio in luoghi di grandi battaglie. Tavuglia, per esempio, uno dei luoghi dove ci fu una battaglia molto importante, Montecchio è anche un altro luogo molto segnato. Però devo dire che è un caso, non voglio prendermi meriti che non ho in questa situazione, perché è un'iniziativa che si ripete più volte l'anno, diciamo. No, e poi è dal 2005 che c'è. Quello che mi chiedevo è se tutti gli anni, bene o male, eravate cascati intorno al 25 aprile o no. No, noi abbiamo due appuntamenti fissi e stiamo pensando comunque di ampliare questa cosa, mettere a sistema come, diciamo, offerta turistica a sé, offerta di un turismo particolare, chiaramente, perché iniziamo sempre con l'autunno, c'è un'edizione autunnale e quest'anno è la prima edizione primaverile. Che fate anche primavera. Certo. L'ultima certo. cosa che dobbiamo assolutamente dire è se qualcuno che ci sta ascoltando è interessato a partecipare, come deve fare? Dunque, deve contattarci all'indirizzo info@unpaese100storie.it, 100 in lettere, può guardare il nostro sito dove trova tutti i riferimenti, ci sono ancora posti disponibili, quindi se qualcuno è interessato... Fatevi avanti! Un paese 100 storie senza la E in aggiunta, no, lo senza dico perché poi uno digita e sennò poi non vi trova, e magari un paese e 100 storie si scopre che invece è un sito porno, quindi è giusto dirlo. Speriamo di no, perché lo dirci si offenderebbe tantissimo, la signora che voi avete visto nel comunicato stampa... Quelle pupazzo si chiama Dirce e adesso tenderebbe tantissimo. Giusto. La Dirce. Giustamente. Grazie mille, Cristina Ortolani. Grazie mille. Di un paese 100 storie. Grazie ancora. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Insomma, questa è una bella iniziativa, era giusto così dare un consiglio in questi giorni, anche per una giornata o due di turismo, visto che ci sono un po' di ponti, un po' di occasioni. Appena dopo Pasqua, per il ponte del 25 aprile, nelle Marche. Noi salutiamo tutti, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, così come Giorgio De Luca in regia oggi, Paolo Corleoni, auguri a tutti ancora, ci buona sentiamo Pasqua, sabato buona Pasqua, prossimo. Anche a chi ci ascolta in podcast quando sarà, non lo so, il primo maggio chissà magari. Chissà quando, sì. Esattamente. Ciao! Ciao. See you.